L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Seconda puntata. Il fedele Baiardo. Lettura poetica di Giorgio Albertazzi. Narratore Gianni Bonagura. Intorno ad Angelica in fuga è un vorticare di guerrieri che, accecati dal desiderio, dimenticano i sacri doveri cavallereschi e per troppa precipitazione continuano a girare a vuoto. Tra tanti paladini, chi interverrà a salvare la donna insidiata? Un'altra donna. E in mezzo a tutti loro chi è l'unico ad agire sensatamente in base a un piano meditato? Un cavallo. Sacripante, che credeva d'avere ormai Angelica in sua mano, viene interrotto sul più bello dall'irruzione d'un cavaliere bianco vestito. Duellano. Il cavallo di Sacripante cade morto. L'avversario sconosciuto, pago di tale vittoria, corre via. Sacripante apprenderà con grande scorno d'essere stato disarcionato non da un guerriero, ma da una guerriera. L'amazzone dal bianco pennacchio, altri non era che l'invincibile Bradamante. Ecco pel bosco un cavalier venire, il cui sembiante è d'uom gagliardo e fiero, candido come nieve il suo vestire, un bianco pennoncello ha per cimiero. Re Sacripante, che non può patire che quel con l'importuno suo sentiero gli abbia interrotto il gran piacer ch'avea, con vista il guarda disdegnosa e rea. Come è più presso, lo sfida a battaglia, che crede ben fargli votar l'arcione. Quel che di lui non stimo già che vaglia un grano meno e ne fa paragone, l'orgogliose minacce a mezzo taglia, sprona un tempo e la lancia in resta pone. Sacripante ritorna con tempesta e corronsi a ferir testa per testa. Non si vanno i leoni o i tori in salto a dar di petto, ad accozzar sì crudi, siccome i due guerrieri al fiero assalto che parimenti si passar gli scudi. Fe lo scontro tremar dal basso all'alto l'erbose valli insino ai poggi ignudi, e ben giovò che fur buoni e perfetti gli osberghi, sì che lor salvaro i petti. Già non fero i cavalli un correr torto, anzi cozzaro a guisa di montoni. Quel del guerrier pagan morì di corto, che era vivendo in numero de buoni. Quell'altro cadde ancor, ma fu risorto tosto che al fianco si sentì gli sproni. Quel del re Saracin restò disteso addosso al suo signor con tutto il peso. L'incognito campion che restò ritto e vide l'altro col cavallo in terra, stimando avere assai di quel conflitto, non si curò di rinnovare la guerra, ma dove per la selva il camin dritto, correndo a tutta briglia si disserra, e prima che di briga esca il pagano, un miglio o poco meno è già lontano. E quali stordito e stupido aratore, poiché passato il fulmine si leva di là dove l'altissimo fragore appresso ai morti buoi steso l'aveva, che mira senza fronde e senza onore il pin che di lontan veder soleva, tal si levò il pagano a pie rimaso, Angelica presente al duro caso. Sospira e geme, non perché l'annoi che piede o braccia s'abbi rotto o mosso, ma per vergogna sola, onde a di suoi né pria né dopo il viso ebbe sì rosso, e più, coltre al cader, sua donna poi fu che gli tolse il gran peso d'addosso. Muto restava, mi credio, se quella non gli rendea la voce e la favella. «Deh», diss'ella, «signor, non vi rincresca, che del cader non è la colpa vostra, ma del cavallo, a cui riposo ed esca meglio si convenia che nuova giostra. Né perciò quel guerrier sua gloria accresca, che d'esser stato il perditor dimostra. Così, per quel ch'io me ne sappia, stimo, quando a lasciare il campo è stato primo. Mentre costei conforta il saracino, ecco col corno e con la tasca al fianco, galoppando venir sopra un ronzino, un messagger che parea afflitto e stanco, che come a Sacripante fu vicino, gli domandò se con un scudo bianco e con un bianco pennoncello in testa vide un guerrier passar per la foresta. Rispose Sacripante: «Come vedi, m'ha qui abbattuto, e se ne parte orora. E perch'io sappia chi m'ha messo a piedi, fa che per nome io lo conosca ancora». Ed egli a lui: «Di quel che tu mi chiedi, io ti satisfarò senza dimora. Tu dei saper che ti levò di sella l'alto valor d'una gentil donzella. Ella è gagliarda ed è più bella molto, né il suo famoso nome anco t'ascondo. Fu Bradamante quella che t'ha tolto quanto onor mai tu guadagnasti al mondo». Poiché ebbe così detto, a freno sciolto, il saracin lasciò, poco giocondo, che non sa che si dica o che si faccia, tutto avvampato di vergogna in faccia. Poiché gran pezzo al caso intervenuto ebbe pensato in vano, e finalmente si trovò da una femmina abbattuto, che pensandovi più dolor sente, montò l'altro destrier, tacito e muto, e senza far parola, chetamente, tolse Angelica in groppa e differilla a più lieto uso, a stanza più tranquilla. Un fragore improvviso percorre la foresta. Fa il suo ingresso un personaggio guarnito di sontuosi ornamenti. L'impeto della sua corsa è tale da far franare alberi e sassi. Angelica ha un moto di sollievo. Finalmente una presenza familiare ed amica. «Io lo conosco», esclama, «questo è Baiardo». Era infatti il fortissimo cavallo di Rinaldo, che sfuggito di mano al padrone, galoppava a briglia sciolta per il bosco. Sacripante fa per afferrarlo per il morso, ma Baiardo si mette a sparar calci che manderebbero in frantumi una montagna di metallo. Gli s'accosta Angelica e il destriero si mette a farle festa come un cagnolino. È una vecchia storia questa della dimestichezza d'Angelica col cavallo di Rinaldo. Rimonta ai tempi in cui Angelica s'era innamorata di Rinaldo e Rinaldo la sfuggiva. Adesso lui l'ama e lei lo sfugge. Scambi che succedono a chi beve a una certa fontana incantata. I rapporti tra Angelica e il cavallo invece non sono mutati, tanto che Baiardo, ammansito dalla sua mano, si lascia montare da Sacripante. Non furo iti 2 miglia che sonare odon la selva che li cinge intorno con tal rumore e strepito che pare che triemi la foresta d'ogni intorno. E poco dopo un grande strier n'appare, d'oro guarnito e riccamente adorno, che salta macchi e rivi ed a fracasso arbori mena e ciò che vieta il passo. «Se l'intricati rami e l'aer fosco», disse la donna, «agli occhi non contende, Baiardo è quel destrier che in mezzo il bosco con tal rumor la chiusa via si fende. Questo è certo Baiardo, io il riconosco. Deh, come ben nostro bisogno intende, con sol ronzin per lui saria malatto e ne viene egli a satisfarci ratto». Smonta il circasso ed al destrier s'accosta e si pensava dar di mano al freno. Con le groppe il destrier gli fa risposta, che fu presto a girar come un baleno. Ma non arriva dove i calci apposta, misero il cavalier se giungea pieno, che nei calci tal possa avea il cavallo ch'avria spezzato un monte di metallo. Indi va mansueto alla donzella, con umile sembiante e gesto umano, come intorno al padrone il can saltella che sia 2 giorni o 3 stato lontano. Baiardo ancora avea memoria della, chi in albracca il servia già di sua mano, nel tempo che da lei tanto era amato, Rinaldo, allor crudele, allor ingrato. Con la sinistra man prende la briglia, con l'altra tocca e palpa il collo e il petto. Quel destrier, ch'avea ingegno a maraviglia, a lei come un agnel si fa soggetto. Intanto Sacripante il tempo piglia, monta Baiardo e l'urta e lo tien stretto. Del ronzin disgravato la donzella lascia la groppa e si ripone in sella. Poi, rivolgendo a caso gli occhi, mira venir sonando d'arme un gran pedone. Tutta s'avvampa di dispetto e d'ira, che conosce il figliol del duca Amone. Più che sua vita l'ama egli e desira, l'odia e fugge ella più che gru falcone. Già fu ch'esso odiò lei più che la morte, ella amò lui, ora han cangiato sorte. E questo hanno causato due fontane, che di diverso effetto hanno liquore, ambe in Ardenna e non sono lontane. D'amoroso disio l'una empie il core, chi bee dell'altra senza amor rimane e volge tutto in ghiaccio il primo ardore. Rinaldo gustò d'una e amor lo strugge, Angelica dell'altra e l'odia e fugge. Quel liquor di secreto venen misto, che muta in odio l'amorosa cura, fa che la donna che Rinaldo ha visto nei sereni occhi subito s'oscura, e con voce tremante e viso tristo supplica Sacripante e lo scongiura che quel guerrier più appresso non attenda, ma che insieme con lei la fuga prenda. «Son dunque», disse il saracino, «sono dunque in sì poco credito con voi che mi stimiate inutile e non buono da potervi difendere da costui. Le battaglie dal bracca già vi sono di mente uscite e la notte che io fui per la salute vostra, solo e nudo, contra agricane e tutto il campo scudo». Non risponde ella e non sa che si faccia, perché Rinaldo ormai l'è troppo appresso, che da lontano al saracin minaccia, come vide il cavallo e conobbe esso, e riconobbe l'angelica faccia che l'amoroso incendio in cor gli ha messo. Inseguendo Baiardo, sopravviene Rinaldo appiedato e ingiunge a Sacripante di smontare dal cavallo non suo. Questo per dirla in termini educati. In realtà, il signore di Montalbano e il re di Circassia si danno reciprocamente del ladro come in una rissa di taverna. Il duello sarebbe impari, ma Baiardo si rifiuta di combattere contro il suo padrone e Sacripante è costretto dalle sgroppate a scendere di sella e ad affrontare Rinaldo a corpo a corpo. Come mai Baiardo, così fedele a Rinaldo, gli era scappato? Non tarderemo a comprendere che questa fuga, da cui a ben vedere si scatenano tutte le vicissitudini dell'Orlando furioso, era una straordinaria prova di fedeltà e intelligenza. Per servire il suo padrone innamorato, Baiardo si era messo di sua iniziativa sulle tracce d'Angelica, di modo che Rinaldo, correndo dietro al destriero, avrebbe trovato la sua bella. Se si lasciava montare dal padrone, sarebbe stato il padrone a dirigerlo, come sempre avviene a ogni cavallo. Fuggendo, è Baiardo a dirigere Rinaldo. Questo Baiardo così corposamente cavallo tende a sconfinare dalla natura equina proprio perché vuole essere un cavallo ideale. Processo inverso a quello che vedremo compiere all'altro illustre animale del poema, l'ippogrifo, che di caratteristiche equine ne avrebbe poche, ma verrà condotto a servire docilmente da cavallo, ancorché volante. Ingiustissimo amor, perché sì raro, corrispondenti fa i nostri desiri?